terzo anello ad alta voce. Roberto Pedicini legge lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Traduzione di Carlo Fruttero e Franco Lucentini. La confessione di Henry Jekyll. Sono nato in un certo anno del 1800. Erede di una cospicua fortuna e dotato di qualità eccellenti. Incline per natura all'operosità, ambizioso soprattutto di acquistarmi la stima dei migliori, dei più saggi tra i miei simili. Tutto sembrava promettermi un futuro brillante e onorato. Il peggiore dei miei difetti era una certa impaziente vivacità, un'irrequieta gaiezza che taluni sarebbero stati felici di possedere, ma che io trovavo difficili da conciliare col mio prepotente desiderio di andare sempre a testa alta, esibendo in pubblico un contegno di particolare gravità. Fu così che cominciai molto presto a nascondere i miei piaceri e che quando, giunti gli anni della riflessione, presi a considerare i miei progressi e la mia posizione nel mondo, mi trovai già incamminato in una vita di profonda doppiezza. Molti si sarebbero addirittura vantati di certe leggerezze, di certe sregolatezze che io, dalla mia altezza e ambiziosità di vedute, consideravo invece una colpa e nascondevo con vergogna quasi morbosa. Più che difetti gravi, furono dunque le mie aspirazioni eccessive a fare di me quello che sono stato e a separare in me, più radicalmente che negli altri, quelle due province del bene e del male che dividono e compongono la duplice natura dell'uomo. Il mio caso m'ha spinto a riflettere lungamente e a fondo su questa dura legge della vita, che è all'origine della religione e anche senza dubbio tra le maggiori fonti di infelicità. Per duplice che fossi, non sono mai stato quello che si dice un ipocrita. I due lati del mio carattere erano ugualmente affermati. Quando mi abbandonavo senza ritegno ai miei piaceri vergognosi, ero altrettanto me stesso di quando, alla luce del giorno, mi affaticavo per il progresso della scienza e il bene del prossimo. Ma accade che le mie ricerche scientifiche, decisamente orientate verso il mistico e il trascendentale, venissero a confluire con la riflessione che ho detto, gettando una viva luce su questa coscienza d'una guerra perenne di me con me stesso. Sia sul piano scientifico che su quello morale, venni dunque gradualmente avvicinandomi a quella verità, la cui parziale scoperta mi ha poi condotto a un così tremendo naufragio. L'uomo non è veracemente uno, ma veracemente due. E dico due, perché le mie conoscenze non sono giunte oltre. Altri seguiranno, altri porteranno avanti queste ricerche. E non è da escludere che l'uomo, in ultima analisi, possa rivelarsi una mera associazione di soggetti diversi, incongrui e indipendenti. Io, da parte mia, per la natura della mia vita, ho avanzato infallibilmente in una e una sola direzione. È stato dal lato morale e sulla mia stessa persona che ho imparato a riconoscere la fondamentale e originaria dualità dell'uomo. Considerando le due nature che si contendevano il campo della mia coscienza, capii che se potevo dire con altrettanta verità di essere l'una come di essere l'altra, era proprio perché si trattava di due nature distinte. E molto presto, ben prima che le mie ricerche scientifiche mi facessero lontanamente balenare la possibilità di un tale miracolo, appresi a indugiare con piacere, come in un caro sogno ad occhi aperti, sul pensiero di una separazione dei due elementi. Se questi, mi dicevo, potessero incarnarsi in due identità separate, la vita diventerebbe molto più sopportabile. L'ingiusto se ne andrebbe per la sua strada, libero dalle aspirazioni e dai rimorsi del suo più austero gemello. E il giusto potrebbe continuare sicuro e volenteroso nel retto cammino di cui si compiace, senza più doversi caricare di vergogni e rimorsi per colpa del suo malvagio associato. È una maledizione per l'umanità, pensavo, che queste due incongrue metà si trovino così legate, che questi due gemelli nemici debbano continuare a lottare così, nel fondo di una sola e angosciata coscienza. Ma come fare, per dividerli. Ero sempre a questo punto quando, come ho detto, le mie ricerche di laboratorio cominciarono a gettare una luce inaspettata sulla questione. Cominciai a percepire, più a fondo di quanto fosse mai stata riconosciuta, la tremula immaterialità, la vaporosa inconsistenza del corpo, così solido in apparenza, di cui andiamo rivestiti. Scoprii che certi agenti chimici avevano il potere di scuotere e soffiare via questo rivestimento di carne, come il vento fa volare le tende di un padiglione. Ho due buone ragioni per non entrare troppo in particolari in questa parte scientifica della mia confessione. La prima è che il nostro destino e il fardello della nostra vita, come ho imparato a mie spese, sono legati per sempre sulle nostre spalle. Se tentiamo di liberarcene, ce li ritroveremo addosso in qualche forma nuova e ancor più insopportabile. La seconda ragione è che la mia scoperta, come purtroppo risulterà evidente da questo scritto, è rimasta incompleta. Mi limiterò a dire perciò che non solo riconobbi nel mio corpo, nella mia natura fisica, la mera emanazione o effluvio di certe facoltà del mio spirito, ma elaborai una sostanza capace di indebolire quelle facoltà e suscitare una seconda forma corporea, non meno connaturata in me, in quanto espressione di altri poteri, anche se più vili, della mia stessa anima. Esitai a lungo prima di passare dalla teoria alla pratica. Sapevo bene di rischiare la vita, poiché era chiara la pericolosità di una sostanza così potente da penetrare e scuotere dalle fondamenta la stessa fortezza dell'identità personale. Sarebbe bastato il minimo errore di dosaggio, la minima controindicazione, per cancellare del tutto quell'immateriale tabernacolo che mi proponevo di cambiare. Ma la tentazione di applicare una scoperta così singolare e profonda era tale che alla fine vinsi ogni paura. Avevo preparato la mia tintura già da un pezzo. Acquistai allora da una ditta farmaceutica un quantitativo importante di un certo sale, che a quanto mostravano i miei esperimenti era l'ultimo ingrediente necessario. E quella stessa notte, maledetta, preparai la pozione. Guardai il liquido che ribolliva e fumava nel bicchiere. Aspettai che terminasse l'effervescenza. Poi mi feci coraggio e bevvi. Thank you. Subito dopo fui assalito da spasmi atroci, un senso di frantumazione delle ossa, una nausea mortale e un orrore, una revulsione dello spirito, quale non si potrebbe immaginare maggiore nell'ora della nascita o della morte. Ma presto queste torture cessarono e, riprendendo i sensi, mi trovai come uscito da una grave malattia. C'era qualcosa di strano nelle mie sensazioni, qualcosa di indicibilmente nuovo e perciò stesso di indicibilmente gradevole. Mi sentii più giovane, più leggero, più felice fisicamente, mentre nel morale ero conscio di altre trasformazioni. Una caparbia temerarietà, una rapida e tumultuosa corrente di immagini sensuali, uno scioglimento dai freni dell'obbligo, un'ignota ma non innocente libertà dell'anima. E subito, fin dal primo respiro in quella nuova vita, mi seppi portato al male con impeto decuplicato e interamente schiavo del mio peccato d'origine. Ma quella stessa consapevolezza in quel momento mi esaltò e deliziò come un vino. Allargai le braccia, esultando nella freschezza di queste sensazioni, e mi resi improvvisamente conto di essere diminuito di statura. Non c'era uno specchio allora in questa stanza. Quello che è ora di fronte a me mentre scrivo, lo misi qui in seguito proprio per controllare le mie trasformazioni. Ma la notte era già molto inoltrata. Per buio che fosse, anzi, il mattino era già prossimo a concepire il giorno e la servitù era chiusa e sbarrata nelle ore più rigorose del sonno. Decisi dunque, esaltato com'ero dalla speranza e dal trionfo, di avventurarmi in quella nuova forma fino alla mia stanza da letto. Traversai il cortile, suscitando, così forse pensai, la meraviglia delle costellazioni, alla cui insonne vigilanza si scopriva il primo essere della mia specie. Scivolai per i corridoi, straniero nella mia stessa casa, e giunto nella mia stanza, contemplai per la prima volta l'immagine di Edward Hyde. Ma qui, per tentare una spiegazione dei fatti, posso affidarmi unicamente alla teoria. Il lato malvagio della mia natura, cui avevo trasferito il potere di plasmarmi, era meno robusto e sviluppato di quello buono che avevo appena spodestato. La mia vita, dopo tutto, s'era svolta per 9 decimi sotto l'influenza del secondo, e il primo aveva avuto rare occasioni di esercitarsi e maturare. Così si spiega, secondo me, che Edward Hyde fosse più piccolo, più leggero e più giovane di Henry Jekyll. Come il bene traspariva dai lineamenti dell'uno, così il male era scritto a chiare lettere sulla faccia dell'altro. Il male, inoltre, che costituisce la parte letale dell'uomo, a quanto ancora devo credere, aveva impresso a quel corpo il suo marchio di deformità e corruzione. Eppure quando vidi quell'immagine raccapricciante nello specchio, ciò che provai fu un senso di gioia e di sollievo, non di ripugnanza. Anche quello ero io. Mi sembrai naturale e umano. Ai miei occhi, anzi, quell'incarnazione del mio spirito parve più viva, più individuale e spiccata dell'imperfetta e ambigua sembianza che fino a quel giorno avevo chiamato mia. E in questo non posso dire che mi sbagliassi. Ho osservato che quando assumevo l'aspetto di Hyde, nessuno poteva avvicinarmi senza trasalire visibilmente. E questo senza dubbio perché, mentre ciascuno di noi è una mescolanza di bene e di male, Edward Hyde, unico nel genere umano, era fatto solo di male. Thank you. Non indugiai che un momento allo specchio. Il secondo e conclusivo esperimento era ancora da tentare. Restava infatti da vedere se non avessi perduto la mia identità per sempre, senza possibilità di recupero. Nel qual caso, prima che facesse giorno, avrei dovuto fuggire da quella casa non più mia. Tornato in fretta al laboratorio, preparai e bevvi di nuovo la pozione. Di nuovo passai per l'agonia della metamorfosi. E tornando in me, mi ritrovai con la faccia, la statura, la personalità di Henry Jekyll. Quella notte ero arrivato a un bivio fatale. Mi fossi avvicinato alla mia scoperta in uno spirito più nobile, avessi rischiato l'esperimento sotto il dominio di aspirazioni generose o pie, tutto forse sarebbe andato diversamente. Da quelle agonie di morte e resurrezione avrei potuto rinascere angelo, invece che demonio. La droga, infatti, di per sé stessa, non agiva in un senso piuttosto che nell'altro. Non era divina né diabolica di per sé. Scuoté le porte che incarceravano le mie inclinazioni, e di lì, come i prigionieri a Filippi, corse fuori chi volle. Le mie buone inclinazioni erano assopite allora, ma le cattive vigilavano aizzate dall'ambizione, e furono loro a scatenarsi. La cosa proiettata fu Hyde. Delle due persone in cui mi divisi, una fu del tutto malvagia, mentre l'altra restò l'antico Henry Jekyll, quell'incongruo miscuglio che non m'era mai riuscito di riformare. Il cambiamento, insomma, fu interamente verso il peggio. Benché non più giovane, io non avevo ancora perduto la mia avversione per una vita tutta di studio e di lavoro. Avevo ancora voglia di divertirmi a volte. Ma siccome i miei divertimenti erano, diciamo così, poco onorevoli, e siccome ero assai noto e stimato, oltre che d'età rispettabile, l'incongruità di quella vita mi pesava ogni giorno di più. Fu soprattutto per questo che i miei nuovi poteri mi tentarono, e fu così che ne rimasi schiavo. Non avevo che da bere la pozione, abbandonare il corpo del noto professore e rivestire, come uno spesso mantello, quello di Edward Hyde. L'idea mi sorrideva e la trovai allora persino spiritosa. Feci i miei preparativi con la massima cura. Presi in affitto e ammobiliai quella casa di Soho, dove la polizia andò poi a cercare Hyde. Assunsi come governante una donna che sapevo di pochi scrupoli e interessata a tacere. E d'altra parte avvertii i miei domestici che un certo signor Hyde, di cui descrissi l'aspetto, avrebbe avuto d'ora in avanti piena libertà e autorità in casa mia. A scanso di equivoci, anzi, e perché in casa si familiarizzassero con lui, mi resi visita nel mio nuovo aspetto. Scrissi poi e ti affidai il testamento che tanto disapprovasti, di modo che se fosse accaduto qualcosa al dottor Jekyll, avrei potuto succedergli come Hyde. E così premunito, a quanto supponevo, da tutti i lati, cominciai ad approfittare delle strane immunità della mia posizione.